Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Se le automobili diventano cellulari con le ruote, come sta accadendo, le strade non possono che dotarsi di una dimensione digitale. E difatti in tutto il mondo e anche in Italia stanno partendo vari progetti volti a dotare le infrastrutture viabilistiche di una moltitudine di sensori e di sistemi per supportare la comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura e trasformare così le strade che conosciamo in cosiddette smart road. Ed è proprio alle strade intelligenti che dedichiamo il primo speciale di Smart City della serie Il futuro è oggi, in collaborazione con Audi Innovative Thinking, speciale che inizia questa sera e ci accompagnerà per tutta la settimana. Un viaggio che iniziamo, manco a dirlo, proprio dalle autostrade, le autostrade italiane, dove tra non molto esordirà il primo tratto autostradale dedicato alla sperimentazione delle auto che si guidano da sole. Per parlarcene c'è Luigi Carrarini, responsabile dell'unità infrastrutturazione tecnologica e impianti dell'ANAS, che è anche project manager del progetto Smart Road di ANAS. Buonasera Carrarini. Buonasera dottor Melis, buonasera a tutti. Dunque Carrarini, parliamo di un tratto di 60 chilometri lungo la Salerno, la mitica Salerno-Reggio Calabria, o meglio oggi bisogna chiamarla A2, vero? Perché sennò vi offendete voi di ANAS. Non è che ci offendiamo, devo dire che non è il termine A2 del Mediterraneo, secondo noi è il termine giusto per individuare questa autostrada che connette l'Europa veramente al Mediterraneo. E forse anche un modo per dimenticare appunto un passato un po' turbolento di questo tratto autostradale, che però diventerà il più moderno d'Italia. Ecco, che cosa avrà di speciale questo tratto autostradale in termini appunto di infrastruttura? Ma lei prima parlava di guida assistita e autonoma. Noi ci proponiamo di consegnare a chi ha voglia e interesse, e i tempi sono maturi, di sperimentare sistemi a guida autonoma, e l'autostrada da questo punto di vista verrà quindi dotata di tutte le infrastrutture che permetteranno una connessione sicura, lato infrastruttura, noi comunque rimaniamo un gestore autostradale, per il collegamento quindi tra autostrada e utente sul veicolo. La prima di queste avrete sicuramente visto è il cosiddetto Wi-Fi Motion, è un concetto tutto nuovo che consente quindi di sfruttare sistemi tradizionali adattandoli a quello che volevamo, cioè vogliamo praticamente che l'utente attraverso questi protocolli possa essere connesso a 130 km/h. Fino a 130 km/h, con continuità. Ecco, con continuità. Quindi ci saranno questi sistemi per far parlare l'infrastruttura stradale con i veicoli, e poi c'è anche tutta una dotazione sensoristica invece che sparpaglierete lungo questi 60 km. Sì, noi abbiamo già in ANAS un mucchio di dati, avremo la necessità di averne ancora di più per poter meglio offrire ai nostri, diciamo, utenti comfort e informazioni durante la loro guida. Quindi avremo tutto un sistema di monitoraggio delle infrastrutture, lo stato di salute delle infrastrutture, parliamo di gallerie piuttosto che ponti, viadotti, piano viabile, temperatura del piano viabile, stato delle barriere, eventuali crash. Quindi certo, abbiamo la necessità di poter dare all'utente informazioni in tempo reale sullo stato della strada. Perfetto, quindi avete bisogno prima di tutto di raccoglierle queste informazioni, quindi sensori un po' da tutte le parti, e lo dico io per fare in fretta, insomma ci sarà anche un sistema di generazione distribuita dell'energia con rinnovabili per alimentare tutti questi sensori, questi sistemi di comunicazione. Che cosa se ne faranno le self-driving car di tutti questi dati sull'infrastruttura delle comunicazioni con appunto col sistema stradale? Ma le faccio l'esempio reale direttamente. Un veicolo che sta attraversando una lastra di ghiaccio. Allora, in questo momento noi diamo l'informazione direttamente al veicolo che segue. L'asta di ghiaccio presente, frena, cioè senza questo tipo di informazione il veicolo Perfetto. Non ha informazioni per poter intervenire autonomamente sulla guida, e questo è un fattore di rischio. Quindi sostanzialmente, per esempio, l'infrastruttura servirà a consentire ai vari veicoli di parlarsi fra di loro, facendo in modo che quello che precede dia informazioni a quello che segue, su quello che sì, lo aspetta sostanzialmente. Sì, scambiano informazioni, ma lo stesso veicolo, se ha una avaria, deve poter trasmettere al veicolo certo, che lo segue la propria avaria. Perfetto, perfetto. Senta, quando questi 60 km di A2 saranno definitivamente attrezzati per le self-driving car? Ma guardi, stiamo andando qui in ANAS molto velocemente. Noi abbiamo in programma di avere i primi 60 chilometri completi delle tecnologie che abbiamo inserito già a partire dal secondo semestre del 2018. Ok, d'accordo, quindi poco più di un anno. Già un anno. Va bene, grazie Carrarini, ma domani parliamo anche di tutto il resto della rete autostradale. Buonasera, dottor Melis. È tutto, a domani.